nel buio della stanza so che pensi a me. E sfiori con le dita un viso che non c'è. Ma la notte finirà, tutto il mondo ci vedrà, e tutti domani sapranno che ho scelto te. Se guardi nello specchio la vedi. Grigia ridere di me, chiudi gli occhi e senti già che è diversa la realtà, la notte si spegne, domani sarai con me. Quell'ombra è svanita, io sono vicino a te, nel buio sola non sei più, tu stringi le mie mani e senti che è tanto lontana la notte ormai, è tanto lontana la notte ormai, è tanto lontana. Riccardo Fogli!